Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Trovo inaccettabile dare questa immagine della donna come se fosse un animale domestico, quindi apprezzare il fatto che la donna sia mansueta, condiscendente, sottomessa, è qualcosa che non è accettabile ed è offensivo sicuramente per le donne, ma anche per gli uomini, perché è come se gli uomini ancora oggi non avessero la facoltà di relazionarsi alle donne in un modo rispettoso e paritario. Quindi è come se in un colpo solo noi ci ritrovassimo indietro di un secolo. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è il commento della Presidente della Camera, Laura Boldrini, a proposito della rubrica della RAI, si intitola Parliamone Sabato, che molto clamore e indignazione ha suscitato appunto sabato scorso con questo dibattito sulle donne dell'Est che sarebbero particolarmente desiderabili e desiderate da parte degli uomini perché, per esempio, fra le varie qualità, quando partoriscono poi ritornano con dei fisici perfetti, sono ottime casalinghe e imparano a esserlo sin da bambine, perdonano il tradimento e sono sottomesse all'uomo. Allora, cosa è successo? Che tutto questo vespaio di polemiche che si è alzato tra ieri e oggi ha portato questo pomeriggio alla chiusura di questo programma. Sentiremo su questa polemica, su questa faccenda, insomma, piuttosto articolata e infuocata, il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza della RAI, Roberto Fico. Qui Effetto Notte lo raggiungeremo più tardi e poi ci occuperemo di Brexit. Visto che oggi la prima ministra britannica Theresa May ha annunciato quella che sarà la data ufficiale dalla quale partirà l'iter per il divorzio dall'Unione Europea, e cioè il 29 marzo. Ci occuperemo anche degli Stati Uniti, perché continua questo braccio di ferro, questo scontro tra Trump e i servizi segreti, quindi ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti. Poi abbiamo un record felice finalmente, che è quello di essere noi italiani il popolo più sano del mondo, secondo un'importante classifica, e di questo parleremo con un importante nutrizionista, quindi prendete poi appunti per capire anche effettivamente come continuare a essere il popolo più sano del mondo. Allora, a proposito di alimentazione, un menù veramente ricco questa sera, come sempre, a Effetto Notte. Non perdete neanche un istante, vi ricordo che per interagire ci sono due canali privilegiati per voi, la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666. Un sacco di argomenti, ma prima di approfondirli, il riassunto della giornata. Rai chiude la trasmissione Parliamone Sabato, travolta dalle polemiche con la sua conduttrice Paola Perego per la lista sessista che elencava i motivi per scegliere le donne dell'Est. Qui Effetto Notte, più tardi il presidente della Commissione Vigilanza Rai, Roberto Fico. E poi Brexit, la prima ministra britannica Theresa May annuncia l'avvio del divorzio dall'Unione Europea, scatterà il 29 marzo. Stati Uniti, scontro aperto tra Trump e l'FBI, prosegue l'indagine su Russia Gate e la commissione degli 007 smentisce il presidente, non fu intercettato. Immigrazione, anche oggi centinaia di arrivi di immigrati in Sicilia, ma fra Europa e Africa si tenta un accordo per fermare i flussi. Locri, più lavoro meno sbirri, scritte sul muro del vescovado della cittadina calabrese dopo la visita di Mattarella e il suo monito contro i mafiosi. Don Ciotti commenta, l'impegno dà fastidio. Riciclaggio, ordine d'arresto per Giancarlo Tulliani, ma il cognato di Gianfranco Fini, che risiede a Dubai, è irreperibile. Danza, è morta a 80 anni la coreografa Tisha Brown, star della danza contemporanea. Salute, secondo una nuova classifica l'Italia ha la popolazione più sana del mondo. A Effetto Notte, per parlarne, sarà ospite il professor Calabrese, e nella giornata internazionale della felicità indetta dall'ONU il popolo più felice risulta quello norvegese. Ma partiamo quindi dalla bufera che si è abbattuta su questo programma della RAI, Parliamone Sabato, si intitola, condotto da Paola Perego e che ha portato alla sua chiusura. Perché io su internet ho trovato un articolo che elenca i motivi per cui una donna dell'Est è meglio di una donna italiana. Alla fine in RAI si è optato per la chiusura definitiva di Parliamone Sabato, il programma condotto il sabato pomeriggio da Paola Perego. L'ultima puntata è scivolata su un dibattito dedicato alle donne dell'Est, con tanto di lista contenente le ragioni per cui gli uomini italiani dovrebbero preferirle. A prendere la decisione il direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, che ha scritto: gli errori si fanno fanno e le scuse sono doverose, ma non bastano. E in merito alla chiusura del programma, definita semplice e necessaria reazione ai contenuti andati in onda, ha aggiunto che proprio questo tipo di contenuti contraddicono in maniera indiscutibile la mission del servizio pubblico. Paola Perego, insieme con altri ospiti, aveva decantato le qualità delle donne dell'Est. Sono sexy, non mettono i pigiamoni, perdonano il tradimento, non frignano e sono disposte a far comandare il loro uomo. Un siparietto disgustoso per il sindacato dei giornalisti Rai. Errore folle e inaccettabile per la presidente del servizio pubblico Monica Maggioni, che ha definito la puntata una paginetta medievale con un'immagine della donna retaggio di altre epoche. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi, come vi dicevo, torneremo a parlarne con Roberto Fico, presidente della Vigilanza Rai, Commissione Vigilanza Rai, per capire che cosa ne pensa e a che punto stanno i contenuti e i controlli anche su quello che va in onda sulla RAI. E poi all'estero, con la Gran Bretagna, 9 mesi dopo il referendum sulla Brexit, la prima ministra britannica Theresa May ha fissato l'attesissima data, sarà il 29 marzo, la Premier lì farà scattare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, facendo quindi partire ufficialmente il procedimento di uscita dall'Unione Europea. Si aprirà così a fine mese il biennio di negoziati per il divorzio tra Londra e Bruxelles, che si prospettano a dir poco difficili. Anche di questo torneremo a parlare nel corso di Effetto Notte. Dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti prosegue la battaglia fra il presidente americano Trump e l'FBI. Il direttore dell'agenzia federale James Comey ha confermato al Congresso indagini su possibili collusioni dello staff di Donald Trump con la Russia durante le elezioni 2016. Il capo della Casa Bianca continua però a parlare di fake news, di notizie false. Nel frattempo il presidente della Commissione Intelligence della Camera americana, Nunes, ribadisce che a proposito delle accuse di spionaggio che Trump muove al suo predecessore Obama, non vi sono state intercettazioni alla Trump Tower. E per avere aggiornamenti freschi anche su queste vicende, poi ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti. E sono tutti sopravvissuti i passeggeri e il personale dell'equipaggio a bordo del jet che si è schiantato e poi è andato a fuoco all'aeroporto di Wau in Sud Sudan. Si tratta di un totale di 44 persone che sono riuscite a fuggire prima del diffondersi delle fiamme. Parliamo di migrazione, giornata di incontri a Roma fra europei e africani sul tema e giornata di nuovi arrivi di immigrati in Sicilia. Uno sforzo con rari precedenti, quello messo in campo dalla diplomazia italiana riuscita a far sedere attorno allo stesso tavolo i rappresentanti dei paesi maggiormente coinvolti dal fenomeno dei migranti. In primo luogo la Libia con il premier Sarraj e poi i ministri dell'interno di Algeria e Tunisia. Per l'Europa il commissario all'immigrazione Avramopoulos e i ministri di Francia, Austria, Germania, Malta, Slovenia e Svizzera. Dal presidente del Consiglio Gentiloni l'auspicio che su un problema così serio vi sia un impegno comune. L'Europa deve insieme farsi carico dell'impegno sia per l'accoglienza di chi ha il diritto all'accoglienza, cioè dei rifugiati, di coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all'asilo, e sia per il rimpatrio di coloro che questo diritto all'accoglienza non ha. Non possiamo lasciare da sole né l'Italia né la Libia, spiega il commissario europeo Avramopoulos. Dal premier libico Sarraj l'impegno quindi nella lotta al traffico di esseri umani. Quanto all'accordo siglato dall'Italia con Tripoli il 2 febbraio, che prevede tra l'altro la fornitura alla Libia di navi, gommoni, elicotteri, il ministro dell'interno Minniti conferma entro aprile vi sarà la consegna delle prime 10 motovedette. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ore, Roma. L'Europa si prepara a festeggiare i 60 anni dei trattati di Roma con i quali nacque l'Unione. Nella capitale, a Roma, c'è molta preoccupazione per possibili disordini. Si parla ormai di una Roma blindata. Tutti eventi che poi culmineranno il 25 marzo nelle celebrazioni ufficiali, verranno rafforzate le misure di sicurezza. Un centro controllato da 100 telecamere aggiuntive ci sarà. E poi oggi è partito ufficialmente il viaggio di Radio 24 attraverso appunto queste celebrazioni. Ci sarà un appuntamento anche nel corso di Effetto Notte. Siamo alla politica italiana. Sul caso di Genova interviene Beppe Grillo. Non c'è un problema di metodo, il metodo è giustissimo, è tutto spiegato nel blog. Dopo il caso di Genova, Beppe Grillo risponde sulla bocciatura di Marika Cassimatis, votata online e destituita dallo stesso Grillo. Una democrazia senza regole non è democrazia, abbiamo le nostre regole, chi non è d'accordo si faccia un altro partito. Poi una stoccata alla Lega dopo il voto su Augusto Minzolini, si è fatta casta, nella Roma dei palazzi ci sguazza, un'affermazione che allontana la possibilità di un'alleanza all'indomani delle elezioni. Il movimento è tutto con lui, da Paola Taverna ad Alessandro Di Battista. Chi conosce un po' i territori sa che ci sono alcune persone che formano determinate liste che non sono del tutto in linea con la lotta, perché questo è il termine esatto, che si porta avanti da 4 anni in questa parte. E al convegno sull'acqua alla Camera, dove Grillo partecipa, arriva proprio Di Battista, che abbraccia il leader 5 Stelle, in precedenza l'incontro con Luigi Di Maio, che sul blog continua a prevedere la fine della stagione politica dove i partiti sono al collasso. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Si aggrava la posizione di Gianfranco Fini nell'inchiesta che coinvolge i familiari di sua moglie. La Procura di Roma ora chiede l'arresto per il cognato. Ordine di cattura per Giancarlo Tulliani e nuovi sequestri anche di auto per il cognato dell'ex presidente della Camera, che resta però irreperibile a Dubai. Negli Emirati Arabi il congiunto di Gianfranco Fini si è trasferito dopo gli arresti a dicembre dei suoi presunti complici in un'inchiesta sul riciclaggio del re delle slot machine, Francesco Corallo. In questi 4 mesi nuovi elementi sono stati acquisiti dalla Procura di Roma, soprattutto dagli interrogatori degli indagati, a cominciare dall'ex onorevole Amedeo La Boccetta, che ha appesantito, tra l'altro, la posizione dell'ex leader di AN sulla storia della casa di Monte Carlo. Fu lui a dire a Corallo, fa mettere a verbale, che voleva comprare casa nel Principato. Si tratta di reati che hanno connotato un'intera fase politica, toccando l'ordinamento economico dello Stato, scrive ora il GIP nel decreto di sequestro e in un'ordinanza che resta però ineseguita. Con Dubai non ci sono accordi per l'estradizione, ma il paese potrebbe decidere che Tulliani non sia più persona gradita e metterlo su un aereo. Raffaella Calà, Andrà Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora l'Italia, partiranno mercoledì una serie di tavoli tecnici per affrontare la crisi di Alitalia. Questo è quanto stabilito dall'incontro di oggi tra il governo, la compagnia aerea e i sindacati, che confermano lo sciopero unitario del 5 aprile. Nel settore aereo ora ci sono stati due scioperi, possibili disagi anche in queste ore. Altro tavolo è quello dedicato al riordino del settore dei servizi taxi e di noleggio con conducente. Il decreto è in arrivo, fanno sapere fonti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Domani verrà ascoltata la posizione di Uber, mentre i tassisti confermano l'astensione dal servizio per il 23 marzo. La cronaca: 12 giovani di età compresa tra 14 e 19 anni sono stati fermati a Roma per aver messo a segno 6 raid in 6 giorni contro negozi gestiti da stranieri. 3 sono maggiorenni che si trovano ora agli arresti domiciliari, i minori sono stati sottoposti alla misura di permanenza a casa. La Procura di Reggio Calabria sta per aprire un fascicolo sulle scritte apparse sui muri di Locri all'indomani della visita del Capo dello Stato e prima della tradizionale manifestazione organizzata domani, come ogni anno, dall'Associazione Libera in memoria delle vittime della mafia. Meno sbirri, più lavoro, Don Ciotti sbirro, è stato scritto sui muri dell'Arcivescovado. Non si tratterebbe però di un avvertimento alla Chiesa, ha detto a Radio 24 il Vescovo di Locri, Francesco Oliva. Ma non credo. Noi andiamo avanti per la nostra strada, abbiamo una missione da portare avanti, che è una missione soprattutto di annuncio del Vangelo e di denuncia anche di quelle situazioni che non vanno. David Rockefeller, patriarca della famosa famiglia, dal 2004 ne è patriarca, è morto all'età di 101 anni. Rockefeller era l'ultimo nipote ancora in vita di John Rockefeller, il fondatore della Standard Oil. E c'è anche un lutto nella danza: Trisha Brown, coreografa e una delle icone della danza contemporanea americana, è morta all'età di 80 anni. Con le sue coreografie la Brown ha dato vita, ha delineato la strada per generazioni di creatori di danza contemporanea. E c'è immancabile la classifica dei paperoni della rivista Forbes. Bill Gates si conferma per il 4º anno consecutivo l'uomo più ricco del mondo, con una fortuna di 86 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 75 miliardi del 2016. La medaglia d'argento va a Warren Buffett con 75,6 miliardi di dollari. Jeff Bezos di Amazon conquista per la prima volta il podio, salendo al terzo posto con 72,8 miliardi di dollari. Completano la top 5 Amancio Ortega, il patron di Zara, con 71,3 miliardi di dollari, e Mark Zuckerberg con 56 miliardi di dollari. E per quanto riguarda l'Italia, Maria Franca Fissolo, moglie di Michele Ferrero, vedova di Ferrero, si conferma la più ricca d'Italia, con una fortuna stimata in 25,2 miliardi di dollari. E ora parliamo di un ottimo record che ci riguarda. Secondo la classifica mondiale sullo stato di salute dei popoli redatta da Bloomberg, l'Italia è il paese con la popolazione più sana a livello mondiale. Un bambino nato in Italia, tra l'altro, ha un'aspettativa di vita di 80 anni e dietro di noi si piazzano Islanda, Svizzera, Singapore e Australia. E poi nel corso di Effetto Notte ne parleremo con un famoso nutrizionista anche per farci dare qualche consiglio, quindi preparatevi per gli appunti. E tra l'altro nella giornata internazionale della felicità indetta dall'ONU, la Norvegia può ora vantare di essere il paese più felice al mondo, scalzando quest'anno dal vertice della classifica la Danimarca, che passa al secondo posto davanti a Islanda, Svizzera e Finlandia, e questo malgrado il crollo del prezzo del petrolio, che costituisce uno dei fondamenti del benessere economico del ricco paese scandinavo di soli 5 milioni di abitanti. Pare che a rendere più felice questo paese, più felice del mondo, sia il senso di comunità, che è particolarmente forte nella società norvegese. Bene, direi che il riassunto ormai è più o meno completo delle notizie più importanti. Possiamo dedicarci tra poco ad approfondire alcuni temi particolari. Dovremo raggiungere, fra l'altro, per questa polemica così accesa sul programma che è stato chiuso della RAI, il presidente della Commissione Vigilanza RAI, Roberto Fico, tra poco. Pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri messaggi. Numero per i WhatsApp ed SMS è 349-238-6666. Dice questo ascoltatore, Max Taxi, ma se siamo il paese più sano del mondo, perché la spesa sanitaria è così alta? A parte appunto che sappiamo che ci sono sprechi, che il mondo della sanità ha tanti aspetti, alcuni non molto chiari. Poi abbiamo anche un sistema sanitario che magari rispetto ad altri paesi ci tutela ancora abbastanza, anche se non come una volta. E poi dice, la Boldrini invece di chiudere trasmissioni televisive si preoccupasse del bel paese, che di bello ormai ha molto poco. Insomma, mi pare legittimo che però possa dire qualcosa sulla principale azienda del paese, culturale del paese, che è la RAI. O no, a tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi. 60 minuti per stare insieme, già sono passati 20 minuti, vi ho raccontato come sempre la giornata in sintesi. Adesso cominciamo ad approfondire alcuni temi in particolare, tra cui quello che ha tenuto banco in queste ore con molte polemiche. Vi ricordo tra poco quali sono le notizie principali, se avete acceso puntualmente alle 21, e vi ricordo anche che i vostri canali per interagire qui Effetto Notte sono la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi e WhatsApp, che è 349-238-6666. Per esempio, a proposito dell'argomento di cui parleremo tra pochissimo, Enrico dice: io ci vedo tanta ipocrisia sulla chiusura di questo programma della RAI, premesso che il 90% di ciò che viene trasmesso in televisione vale culturalmente zero, non mi sembra ci sia da scandalizzarsi, è quello che pensano la maggior parte delle persone, delle donne dell'est, maschilismo, razzismo, dice l'ascoltatore, può essere in parte, ma se è così quante trasmissioni andrebbero chiuse? E poi Simone dice invece, un altro ascoltatore scrive, che quando si dice che la mentalità imperante è maschilista è vero, resta il fatto che molte donne dell'est, ucraine, bielorusse eccetera, pur avendo avuto il comunismo, sono abituate a uno stile di vita molto maschilista e a considerare l'uomo benestante occidentale come qualcuno che risolve i loro problemi economici e pratici. Moltissimi sono i vostri messaggi sulla pagina Facebook e anche al 349-238-6666. Tra poco ne parliamo, intanto vi rammento quali sono i fatti principali della giornata. Conto la rovescia per la Brexit, la lettera che per avviare l'iter ufficialmente del divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea partirà il 29 marzo, come oggi ha annunciato la prima ministra britannica Theresa May. Bufera sulla trasmissione di Paola Perego della RAI, il direttore generale della RAI la chiude. Diciamo, c'era questo dibattito sui 6 motivi per preferire le donne dell'est, adesso ne parliamo. E poi più lavoro meno sbirri, questa scritta a Locri, cittadina calabrese, dopo la visita di Mattarella che ha lanciato un monito contro i mafiosi, questa scritta sul muro dell'arcivescovado, Don Ciotti dice l'impegno evidentemente dà fastidio. E poi scontro aperto tra Trump e l'FBI, continua questo scontro, prosegue l'indagine su Russia Gate, cioè sulle possibili interferenze della Russia insieme allo staff di Trump nelle elezioni presidenziali. E poi morto David Rockefeller, il filantropo, aveva 101 anni e per la rivista Forbes Bill Gates è ancora il re dei paperoni. Avete sentito l'altro record invece che ci riguarda, che siamo il paese più sano del mondo. Vogliamo parlare del fenomeno delle donne dell'est e del fascino che queste donne esercitano sugli uomini. Meglio la donna dell'est perché sono tutte mamme, ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo. Può darsi. Sono sempre sexy, niente tute né pigiamoni. Questo mi è stato insegnato da piccolo. Sì, mio papà me l'ha detto. E cosa tuo papà? Sì. E cosa ti diceva? Allora, mia mamma mai portato cibate in casa. Cioè, mai è sempre minigonne, io giro in casa con minigonne. Perdonano il tradimento, ecco. È vero? Sì, sempre. Le ragazze dell'est sono disposte a far comandare il loro uomo. Io su questo sì, non ci credo. L'uomo deve essere comandare. Lo so. Deve essere l'uomo a comandare? Cioè, ovviamente deve esserci rispetto tra loro due, però è l'uomo che deve essere il capo della famiglia. E questa è una sintesi dei momenti clou appunto di questa trasmissione di sabato, Parliamone Sabato, appunto condotta da Paola Perego, e la polemica su quanto è andato in onda ha tenuto banco nelle ultime ore sui media, tra i social e nel dibattito pubblico anche politico. Ha creato appunto in seguito a questo clamore, a questo scandalo, i vertici della RAI in questo pomeriggio hanno deciso di chiudere il programma. I fatti sono questi, quindi durante questa ultima e quindi a quanto pare definitivamente ultima puntata di Parliamone Sabato, l'avete sentito, il tema era perché gli uomini preferiscono le straniere e in particolare le donne dell'est, sono queste donne rubamariti, veniva chiesto, oppure mogli perfette, e si sono chiesti in trasmissione questa cosa mostrando una grafica sul maxi schermo con 6 punti, tra questi 6 punti ne avete sentiti alcuni, no? Appunto le donne dell'est non mettono il broncio, sono sottomesse, perdonano sempre i tradimenti, sono d'accordo sul fatto che a comandare sia l'uomo, e una serie di altre cose. Sui social sono fioccate immediatamente le polemiche, le richieste di spiegazioni, un po' diciamo tra l'incredulità e la denuncia. Poi nel pomeriggio quindi la decisione da Viale Mazzini di chiudere questa trasmissione. Il direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto, ha detto: i contenuti contraddicono in maniera indiscutibile sia la mission del servizio pubblico che la linea editoriale che abbiamo indicato sin dall'inizio del mandato. La presidente Monica Maggioni ha detto: non ho visto la puntata. La presidente della RAI ha detto: io lo sto scoprendo dai siti, quello che vedo è una rappresentazione surreale dell'Italia del 2017, se poi questo tipo di rappresentazione viene fatta sul servizio pubblico è un errore folle, inaccettabile. Personalmente, ha detto Maggioni, mi sento coinvolta in quanto donna, e conclude: mi scuso. E poi avete sentito all'inizio la presidente della Camera Laura Boldrini che ha detto: questa cosa ci riporta indietro al Medioevo, offende le donne ma anche gli uomini. A questo punto allora ne vorrei parlare con il presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza RAI, Roberto Fico. Buonasera Fico. Buonasera. Quindi di tutta questa faccenda lei che cosa pensa? Penso che c'è poco da commentare. Chi ha visto la puntata oppure ha visto quelle 6 domande lasciano basiti, anche perché non può essere questa la missione di servizio pubblico in alcun modo. È chiaro e lampante che il servizio pubblico ha una missione, per questo esiste, altrimenti non esisterebbe e le persone non pagherebbero il canone per avere un servizio di questo genere. E sono d'accordissimo con il direttore generale per aver sospeso la trasmissione, più che sospeso, annullata, quindi non si ripeterà più. E spero che da oggi in poi, siccome sono anni che diciamo che la RAI in tutte le trasmissioni deve fare servizio pubblico, si fa un piano editoriale, si faccia finalmente un piano editoriale degno di questo nome e degno del servizio pubblico. Fico, senta, ma alla fine le responsabilità devono ancora essere accertate, di chi sono? Molti hanno chiesto anche la testa di Paola Perego, sono gli autori e la conduttrice. Qual è la catena di controllo? Evidentemente non funziona. La catena dovrebbe saltare tutta, perché io mi chiedo anche proprio la conduttrice, nel momento in cui, che è l'ultimo anello in questo caso della catena, ma che vede in video sei domande di quel tipo, quelle tipo di affermazioni, è chiaro che magari mi sarei fermato un attimo, non le avrei lette oppure avrei notato che c'era qualcosa che non andava. Quindi da lì a salire, ma sicuramente fino al direttore di Rai 1, fino agli autori, e c'entrano tutti in questa storia. Si deve rivedere la catena di comando, la catena di controllo, e chi è diretto responsabile di aver mandato in onda questo scempio, perché di scempio si tratta, deve senza dubbio pagarne le conseguenze. Quindi Roberto Fico, non è chiusa qui la vicenda, avete ancora delle valutazioni da fare? No, sicuramente chiederemo conto delle responsabilità. Ottimo, è giusto che si sia annullata la trasmissione, quindi non ci sarà più, però dobbiamo anche risalire a delle responsabilità. Detto questo, dopo che abbiamo trovato anche le responsabilità, la riflessione deve essere pregnante sul servizio pubblico. Io pago un canone perché? Perché deve avere un servizio pubblico di alta qualità che si contraddistingue da sempre dal servizio commerciale, se no non ha senso l'esistenza, ed è questo che dobbiamo fare e che stiamo facendo da molti anni come commissione. Infatti a questo proposito, Fico, le volevo chiedere complessivamente la qualità della RAI negli ultimi anni, com'è secondo lei dei contenuti? Potremmo dire che a luce d'ombre, perché senza dubbio ha delle buone trasmissioni, dei buoni programmi anche di approfondimento, però ha tanti buchi. Per esempio, uno su tutti è senza dubbio, l'ho detto tantissime volte, la trasmissione dei pacchi, che induce al gioco d'azzardo. È un gioco d'azzardo puro, senza abilità, e secondo me quella non è una trasmissione di servizio pubblico. E anche se piace alle persone, è una trasmissione seguita, noi dobbiamo riuscire a dare altri tipi di messaggi, perché da un lato noi combattiamo la ludopatia e dall'altro la stimoliamo con quelle trasmissioni, e non va bene, bisogna essere coerenti sulle cose che si fanno sempre. Fico, le leggo giusto due o tre messaggi, poi le chiedo un parere. Elena, per esempio, scrive: inqualificabile, non potevo credere ai miei occhi, era l'esito di un sondaggio, non si poteva mandarlo in onda così, ma dai. Alessandro dice: perché arrabbiarsi, pensano che gli ascoltatori siano influenzati dalla trasmissione, hanno un'opinione di così basso livello della gente, non capisco. Poi un altro messaggio di Silvia da Roma, che scrive: la trasmissione della Perego non mi è mai piaciuta, ma sabato scorso ho raggiunto un livello di stupidità allucinante, ben venga la chiusura di questo spazio dove si fa tornare la donna a livelli di medioevo, se questo è servizio pubblico, dice. Poi un ultimo tra i tantissimi, quello di Giulia da Perugia, che scrive: ogni tanto ha senso indignarsi in rete, grazie alle polemiche sui social hanno deciso di chiudere una trasmissione indegna. Fico, lei che riflessione ha fatto su questa reazione del pubblico, dei telespettatori, dell'opinione pubblica? Ma io credo che sia stata un'ottima reazione, perché se ci si indigna per una cosa così palese e poi arriviamo fino in commissione ai vertici della RAI, è stata una sommossa popolare di rete rispetto a dei contenuti che erano obbrobbiosi, e quindi stimolo tutte le persone a fare lo stesso su ogni tipologia di trasmissione che possa offendere o che sia palesemente di servizio pubblico, perché queste persone sono i proprietari della RAI, non certo i partiti, non certo un parlamentare o il governo, sono loro che pagano circa 2 miliardi di euro di canone l'anno, e questi 2 miliardi di euro devono essere spesi per dare un valore aggiunto anche educativo alla società. Grazie Roberto Fico, grazie. Grazie, buonasera. Grazie, buon lavoro. Presidente della Commissione Vigilanza RAI, adesso direi che possiamo fermarci per aggiornare chi sta viaggiando. Continuano i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Dunque, Massimo dice: il problema è che le donne dell'est non sono per niente così, ma lo spero, Massimo, così personalmente. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notesi dal posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano, abbiamo parlato di molti fatti, di molte notizie, abbiamo raggiunto poco fa, è stato ospite qui Effetto Notte, il presidente della Commissione Vigilanza RAI, Roberto Fico, perché abbiamo parlato di questa polemica che ha infuriato nelle ultime ore sul programma che poi la RAI oggi ha deciso di chiudere, Parliamone Sabato, il titolo, condotto da Paola Perego, per questo dibattito, questo sondaggio sulle donne straniere che di più piacciono agli uomini, le donne dell'est, perché sono sottomesse, c'era questa lista, no, dei sei punti principali, sono sottomesse, lasciano che a comandare sia l'uomo, sono delle perfette casalinghe, imparano a esserlo sin da bambine, perdonano i tradimenti e adesso ci occuperemo di altri temi, andremo all'estero, intanto i vostri messaggi continuano sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Per esempio, un ascoltatore, Paolo da Milano, dice: il fatto è che se ci fosse stato un elenco simile riguardante maschi nessuno avrebbe fiatato. Paolo, ma tu onestamente ti puoi immaginare che mai nessuno potrebbe fare una lista in cui dice gli uomini, non so, del tal paese sono sottomessi alle donne, imparano a fare i perfetti casalinghi sin da piccoli, perdonano il tradimento? Non mi pare così, onestamente, così plausibile questa cosa che possa accadere. Comunque, altri messaggi. Raffaele che dice: ma no, era una provocazione, in una trasmissione leggera, non ci ho visto alcun insulto sessista. Enrico dice: assumere gente pensante in Rai non farebbe male, un presentatore serio si sarebbe rifiutato di mandare in onda una roba del genere. Adesso invece proseguiamo tra pochissimo con un altro tema, parliamo di Brexit. Intanto vi ricordo, se avete acceso puntualmente le 21, quali sono i fatti principali di oggi. Rai chiude la trasmissione Parliamone Sabato, travolta dalle polemiche con la sua conduttrice Paola Perego per la lista sessista che elencava i motivi per scegliere le donne dell'est. Avete sentito poco fa qui Effetto Notte il presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Roberto Fico. Brexit, la prima ministra britannica Theresa May annuncia l'avvio del divorzio dall'Unione Europea, scatterà il 29 marzo, ne parliamo a momenti. Stati Uniti, scontro aperto tra Trump e FBI, prosegue l'indagine su Russia Gate. Locri, più lavoro meno sbirri, scritte sul muro dell'arcivescovado della cittadina calabrese dopo la visita di Mattarella, il suo monito contro i mafiosi. Riciclaggio, ordine d'arresto per Giancarlo Tulliani, ma il cognato di Gianfranco Fini, che risiede a Dubai, è irreperibile. Salute, secondo una nuova classifica l'Italia ha la popolazione più sana del mondo. Effetto Notte, per parlarne sarà ospite il professor Calabrese. Quindi occupiamoci di Gran Bretagna. 9 mesi dopo il referendum per la Brexit, la prima ministra Theresa May ha fissato questa attesa data. Inizierà questo iter della Brexit il prossimo 29 marzo, è lì che farà scattare il trattato e l'articolo 50 del trattato di Lisbona, lanciando concretamente quindi il procedimento per il divorzio dall'Unione Europea. Inizierà questo biennio di negoziati sicuramente non facili e l'annuncio arriva tra l'altro a pochi giorni dalle celebrazioni in Italia del 25 marzo, cioè dei 60 anni dei trattati di Roma, in cui praticamente nacque il blocco europeo e paradossalmente si avvia l'Europa a perdere per la prima volta un suo pezzo. Ne parliamo con Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, diplomatico, già commissario europeo nella seconda commissione Barroso. Nelli Feroci, buonasera. Buonasera a lei. Quindi diciamo un divorzio storico proprio perché, no, e poi paradossalmente in questa coincidenza quasi di date, no, tra il 25 marzo in cui si festeggiano i 60 anni dell'Unione Europea e un pezzo dell'Europa, è come se fosse un piccolo cammino a ritroso, qualcuno che se ne va. Sì, intanto direi che dobbiamo essere grati al primo ministro britannico per aver aspettato il 29 marzo e non aver presentato una domanda ufficiale di divorzio dall'Unione prima del 25, che è la data in cui si celebra il 60° anniversario della firma dei trattati. Poi è vero, sì, è la prima volta, è una prima assoluta che un paese membro decide di lasciare questo club, questa unione di stati, e quindi è effettivamente è una sfida importante per quelli che restano. È una sfida importante sia per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente a questo divorzio, ridefinire le relazioni con il Regno Unito nel futuro, ma soprattutto per ritrovare uno slancio progettuale per in qualche modo rimettere in carreggiata il progetto europeo. Ambasciatore Feroci, se lei dovesse dire in sintesi, no, ci si è molto riflettuto, ci si è molto chiesti prima del referendum quali sarebbero stati gli effettivi danni per noi che siamo ancora nell'Unione Europea o per la Gran Bretagna, se dovesse dirlo adesso lei, per gli uni e per gli altri? Danni politici sicuramente, questo negoziato, che dovrebbe durare 2 anni, ma rischia anche di durare più a lungo, sarà molto complesso, molto difficile, e in qualche modo impegnerà le energie e la volontà politica dei 27 da un lato e del Regno Unito dall'altro per trovare una soluzione, in un contesto in cui l'Unione forse avrebbe avuto bisogno di occuparsi di altro che non dell'uscita del Regno Unito. Danni economici, più difficili quantificarli, si erano fatte delle previsioni catastrofiche soprattutto sull'economia del Regno Unito, per ora ha reagito bene, però va detto anche che l'impatto delle conseguenze di questo divorzio potrà essere valutato concretamente soltanto quando sapremo in che termini si realizzerà questo divorzio. Per esempio, una delle questioni più controverse era quella di vedere se o meno il Regno Unito avrebbe continuato a partecipare al grande mercato unico integrato. La May sembra escluderlo, ma come si andranno a ridefinire le relazioni tra Regno Unito e Unione Europea resta un problema ancora tutto aperto. Potranno le banche inglesi continuare ad operare sul mercato europeo? Anche questa è una questione aperta. Potrà rimanere il principio della libera circolazione dei cittadini tra Europa e Regno Unito? Sono tutte questioni aperte e credo che sia difficile fare una previsione finché non sapremo meglio come si andrà a riorganizzare questo rapporto. Come dice lei, insomma, bisogna aspettare i negoziati e vedere che strada prenderanno. Grazie ambasciatore Nelli Feroci. Grazie a lei, buonasera. Grazie, buonasera. The FBI, as part of our counterintelligence mission, is investigating the Russian government's efforts to interfere in the 2016 presidential election. And that includes. Siamo adesso negli Stati Uniti. Sentite quello che parla il direttore dell'FBI, del Federal Bureau di Investigation, Comey, che sta dicendo che in questa audizione al Parlamento americano che effettivamente è in corso un'indagine sulla collusione con la Russia da parte dello staff di Trump durante le elezioni presidenziali. Cioè ci sarebbero, si sta indagando su possibili collegamenti tra lo staff della campagna di Donald Trump durante le presidenziali che lui ha vinto e la Russia. Ne parliamo con il nostro Marco Valsania, che raggiungiamo, corrispondente del Sole 24 Ore, a New York. Caro Marco, buonasera. Buonasera a voi. Quindi continua questo difficile rapporto tra Trump e l'FBI, tra Trump e la CIA, i servizi segreti, no Marco? Assolutamente, assolutamente. Diciamo, l'FBI oggi ha fatto notizia per essere scesa in campo a muso duro, di fatto, nei fatti, contro il presidente. Il direttore dell'FBI, James Comey, che finora era noto più per avere fatto le pulci a Hillary Clinton, l'avversaria di Trump nelle elezioni, sullo scandalo delle email, questa volta ha preso di petto Trump, ha smentito di fatto il presidente, dicendo che non ci sono alcune indicazioni, alcune informazioni su un presunto spionaggio ai suoi danni ordinato da Barack Obama durante le elezioni, un'accusa che Trump ha continuato a ripetere ormai per settimane, e più ancora di questo, come ricordavi, come hai fatto sentire tu, ha confermato ufficialmente per la prima volta che è in corso invece un'inchiesta dell'FBI sui possibili legami, collusioni tra la campagna di Trump e Mosca e il Cremlino, che l'intelligence americana è convinta oggi più ancora di ieri, se possibile, abbia interferito proprio nella campagna elettorale americana, un'interferenza a favore di Trump e per screditare appunto la Clinton. Quindi diciamo sicuramente un doppio colpo alla credibilità di Trump, quella che ha di fatto inferto Comey dal suo scranno, diciamo, di direttore dell'FBI. La Casa Bianca ha immediatamente reagito minimizzando le audizioni, come ha testimoniato alla Commissione Intelligence della Camera, le prime audizioni sulla pista russa e sugli scandali di intelligence, le prime audizioni pubbliche, ha detto la Casa Bianca attraverso il portavoce Sean Spicer che si tratta solo di una di molte audizioni che poi ci saranno e che quindi sostanzialmente suggerendo di non prestare troppa attenzione e ribadendo che non ci sono prove che la Russia sia riuscita davvero a manipolare il risultato elettorale americano e continuando a difendere anche comunque le accuse secondo cui Trump potrebbe essere stato spiato irregolarmente durante la campagna elettorale. Staremo a vedere, chiede qualche ascoltatore, se questa ulteriore vicenda lo metterà in difficoltà. Qualcuno dice non arriverà a fine mandato, insomma ancora tutto da vedere. Grazie. Esatto, se in difficoltà sicuramente in imbarazzo, vedremo se anche in difficoltà. Grazie Marco Valsani da New York, ciao Marco. A voi. Viabilità. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo brevemente le notizie più importanti, stanno arrivando ancora tanti vostri messaggi, ma devo correre con gli argomenti. Rai chiude la trasmissione, parliamone sabato, travolta dalle polemiche con la sua conduttrice Paola Perego, perché per la lista sessista che elencava i motivi per scegliere le donne dell'est. Avete sentito qui effetto notte il presidente della commissione vigilanza Rai, Roberto Fico. Brexit, ne abbiamo parlato, la prima ministra britannica Theresa May ha annunciato l'avvio del divorzio dall'Unione Europea il prossimo 29 marzo. Stati Uniti, nel senso che inizierà dal 29 marzo, Stati Uniti, abbiamo appena parlato, scontro aperto tra Trump ed FBI, e poi riciclaggio, ordine d'arresto per Giancarlo Tulliani, ma il cognato di Gianfranco Fini, che risiede a Dubai, è irreperibile, danza, è morta a 80 anni la coreografa Trisha Brown, star della danza contemporanea, e poi questo nostro record della salute, secondo una nuova classifica l'Italia è la popolazione più sana del mondo. Europa, 60 anni dal sogno alla crisi. Sabato prossimo a Roma sarà firmato il libro dell'Unione Europea, il manifesto che detta la via per il futuro dell'Unione, l'occasione, i 60 anni dai trattati di Roma, di fatto l'atto istitutivo dell'Europa Unita. Da quel giorno sono state fatte scelte che hanno cambiato la storia del paese, del vecchio continente, dall'euro alla difesa comune, dalla libera circolazione allo studio all'estero, obiettivi raggiunti, altri mancati. Li ripercorreremo in un viaggio durante questa settimana a partire proprio da quel giorno di 60 anni fa. Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma due trattati che hanno sì particolari obiettivi economici e sociali, ma che contengono in germe la possibilità di raggiungere la libera unità politica dell'Europa. 25 marzo 1957. Sono le 18 di una lunga giornata piovosa per Roma, quando in Campidoglio, nella sala degli Orazzi e dei Curiazzi, parla il presidente del Consiglio italiano Antonio Segni. Con lui siedono per l'Italia il ministro degli esteri Martino, i ministri degli esteri di Germania, rappresentata anche dal cancelliere Adenauer, Francia, Olanda, Lussemburgo e Belgio. Sono i sei paesi che solo sei anni prima avevano dato vita alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Per il passo successivo, gli Sherpa hanno lavorato duramente per mettere a punto un testo che vinca le resistenze dei francesi. A Roma ci sono comunque tutti. Vengono firmati i trattati di Roma, che sono due. Uno istituisce la Comunità Economica Europea, la CEE. Il secondo, la Comunità Europea dell'Energia Atomica. Obiettivi sono tre. Cadono i dazi doganali, si lavora alla libera circolazione e si punta ad una banca europea per lo sviluppo delle aree arretrate. Sul piano istituzionale nasce una commissione di 9 membri e un'assemblea di 142 deputati eletti dai parlamenti nazionali. Infine, una corte di giustizia per vigilare sull'applicazione dei trattati. Ci sono già tutti i semi di quella che diventerà l'Unione Europea. 60 anni dopo, certo, le parole di allora fanno ancora riflettere. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, quando si dice che l'importante è la salute, no? Pensate che il nostro paese, nonostante questa crisi che morde da anni, quindi nonostante decennali problemi economici, nonostante la crescita che si dice sempre che è un po' da prefisso telefonico, nonostante la disoccupazione che è una delle maggiori in Europa e l'instabilità politica cronica, insomma, di problemi ne avremmo, eppure il nostro paese, pensate, è il più sano del mondo come punteggio. punteggio addirittura l'Italia ha 93,11 punti su 100, questo secondo il Global Earth Index pubblicato da Bloomberg, cioè questo indicatore che tiene conto di una serie di fattori come la durata media della vita, la nutrizione, la salute mentale, fattori di rischio come tabagismo, la pressione sanguigna. Siamo primi dunque in questa classifica su ben 163 paesi monitorati e aiuta quindi un'aspettativa di vita alla nascita che per i neonati italiani di oggi, l'aspettativa di vita per i neonati italiani oggi supera gli 80 anni contro per esempio i 52 anni della Sierra Leone, ultimo in questo parametro, in questa classifica, ma oltre che la durata naturalmente conta anche la qualità, come si vive. Il nostro paese supera anche altre nazioni note per la loro longevità da quelle del nord d'Europa, che sono per esempio l'Islanda, che è seconda in questa classifica dopo di noi a 91,21 punti, la Svezia 88,92 e anche supera quelle orientali come il Giappone che ha in questa classifica 89,15 punti su 100. Ma di tutto questo voglio parlare con Giorgio Calabrese. Buonasera professore. Buonasera a voi. Che è nutrizionista naturalmente di fama internazionale, non ha bisogno di presentazioni, lo ricordo però docente di nutrizione umana, consulente del Ministero della Salute e presidente del Consiglio Superiore per la sicurezza alimentare. Allora professor Calabrese, c'è sempre di mezzo la dieta mediterranea, siamo geneticamente modificati in senso positivo, qual è la questione? Sì, la verità è questa, che il microclima dell'Italia e la concettualità del cibo messa addirittura, io direi ormai non c'è più il cibo di ogni nazione o di ogni regione, siamo arrivati al cibo di ogni condominio in Italia, perché abbiamo veramente il chilometro zero, filiera corta, e capiamo che nonostante noi negli ultimi anni abbiamo un po' abbandonato il concetto della dieta mediterranea, siamo andati in effetti da 100 a 93,11, e considerando che questi della Bloomberg, del Health Country Index, dicono che il massimo sarebbe 97,44, noi siamo quelli più vicini, e quando noi facevamo la lotta tra noi e il Giappone, che si pensava fossimo prime e seconde alternativamente, oggi abbiamo capito che abbiamo portato il Giappone al settimo posto e noi siamo i primi, cioè cibo buono, ma cibo anche onnivoro, alternato, perché la dieta mediterranea è l'insieme di tanti alimenti che vanno dal vegetale all'animale, alla leguminose, alla frutta e a quant'altro. Professore, ecco, questo in sintesi, no, quest'ultima cosa che ha detto, però se vogliamo essere didascalici con chi ci ascolta, perché sa che no, di diete, di regimi nutrizionisti, insomma, di libri spopolano, continuano a uscire, continuano a elaborarne dal digiuno intermittente al veganesimo, oppure chi invece rivaluta certi cibi, come bisogna mangiare? Perché dieta mediterranea si sa è come un marchio ormai, però vogliamo dirlo proprio in modo che un decalogo. Intanto partiamo da un assioma ben preciso: ogni giorno tra frutta e verdura dobbiamo introdurre 5 porzioni di queste due sostanze, 3 di frutta, 2 di verdura, verdura pranzo e cena, frutta mattino, pranzo o cena, oppure mattinata, pomeriggio e cena o pranzo, come volete, poi se ne mangiamo di più ancora meglio. Questo assioma che cosa ci dice? Che avendo questa capacità di leggere l'introduzione del mondo vegetale, quindi ci avviciniamo un po' a coloro che sono un po' vegetariani, sappiamo che siamo in grado oggi, non abusando dei cibi di origine animale, di non poterli togliere, perché comunque sia, non dimentichiamo che in Italia il mondo dei vegetariani e dei vegani non supera l'8%, quindi se noi siamo i primi di tutti, il 92% degli italiani mangia di tutto, il che vuol dire che mangiando di tutto noi abbiamo un po' di carne, un po' di pesce, a volte la carne rossa, a volte la carne bianca, abbiamo la buona pasta, non togliamo mai la buona pasta dalla nostra tavola, alternata al riso, ci sono le patate, ci sono i legumi, questo giro però deve essere fatto ogni giorno in modo più vario, non dobbiamo sempre mangiare la stessa cosa, perché se mangiassimo la stessa cosa non solo ci annoieremmo, ma non metteremmo quella differenziazione, ad esempio della frutta, delle verdure di stagione. Padre Eterno ci ha dato ogni le quattro stagioni e ci cambia man mano che il clima passa dal più freddo al più caldo e viceversa, a verdure e frutte che sono capaci di portare antiossidanti, per cui noi viviamo più a lungo perché aggiungiamo più vita ai giorni e non più giorni alla vita. Professor Calabrese, a parte la carne, poi molti adesso dicono meglio cibi integrali, meglio evitare le farine bianche troppo raffinate. Non sono d'accordo perché il concetto è alterniamo, guardate che qualcuno ha voluto far partire sta colomba di dire che la farina bianca fa venire il cancro, che il latte fa venire il cancro. Anche i latticini, tutto. Sì, infatti, qualcuno ce l'ha con i latticini. Ma per favore, cerchiamo di tornare nella norma, è l'abuso delle cose che può creare problemi, non l'uso, è la tecnica di cucina che può creare dei problemi, non il prodotto stesso, e sono le cattive compagnie alimentari. Faccio un esempio: se io prendo un piatto di spaghetti con salsa di pomodoro, olio extravergine, un po' di parmigiano, grano, pecorino e foglie di basilico, vado benissimo, ma se ci metto il condimento alla carbonara non è la pasta che ha la colpa, è il condimento alla carbonara ricco di grassi e portato ad alta temperatura. Quindi attenzione, mangiate un po' di tutto, mangiamo un po' di tutto. Io ce l'ho avuto in famiglia un papà che è morto a 100 anni e 6 mesi perché mangiava un po' di tutto. Spero, visto che abbiamo più di 17.000 ultracentenari, spero che anche i miei concittadini italiani sappiano continuare questa regola di cui magari non erano manco a conoscenza. Bene avete fatto voi a sottolinearlo. Almeno abbiamo questo ottimo record, almeno uno positivo, teniamocelo. Grazie professor Giorgio Calabrese. Ok, buon grazie. Lavoro e buona serata. Buona continuazione. Oh, e ancora un po' di spazio ai vostri messaggi. Vedo per esempio Fabio che dice, a proposito della trasmissione di cui abbiamo parlato e così criticata, dice: mi vergogno in quanto uomo italiano, dice, mentre altri ascoltatori dicono: ma insomma, tanta tempesta in un bicchiere d'acqua. Vi do notizia che appena è iniziato, insomma, in questi minuti, poco fa, il primo dibattito televisivo tra i candidati, 5 candidati ufficiali alle presidenziali francesi che si terranno a maggio, il 23 aprile il primo turno e poi il secondo turno il 7 maggio. In questo momento sta parlando Marine Le Pen. Vi ricordo che appunto i principali sono Fillon, candidato della destra, e Marine Le Pen, che è la leader del Front National dell'estrema destra, tutte e due che hanno avuto un po' dei guai giudiziari, coinvolti in indagini. Poi gli altri sono Macron, che è quello guardato con maggior curiosità, liberale, social liberale del movimento En Marche, e poi Hamon, che è il socialista Benoît Hamon, e il neocomunista Jean-Luc Mélenchon. Quindi sarà interessante vedere, confrontarsi realmente a questo punto sui loro programmi, visto che fino adesso questi programmi sono stati un po' oscurati per l'appunto dagli scandali che si sono susseguiti negli ultimi mesi. Direi che però a questo punto noi ci dobbiamo lasciare, poi ci aggiorniamo come al solito brevemente alle 22:00.